Si riscosse udendo un fischio stridulo. Lo sentirono anche gli altri. Miss Minnie e Miss Jane balzarono in piedi e attraversarono in fretta il campo, distanziando Mrs. Dewey, che le seguiva ansimante sul terreno accidentato, tenendosi sulle gonne con le mani e agitandole di qua e di là. La musica si era interrotta. Lora vide tutte le streghe e gli stregoni darsi degli spintoni e stringersi in un cerchio. Si chiedeva che cosa stesse succedendo. Comunque fosse, sembravano contenti ed eccitati dal momento che li sentiva ridere e parlare tutti insieme. Doveva esserci un nuovo arrivato, perché sembrava che dessero il benvenuto a qualcuno. Chiaramente costui stava tenendo un discorso, dato che tutti tacevano, un discorso riuscito a giudicare dal silenzio rotto solo dagli applausi e dagli scoppi di risa. «Ma certo!» esclamò Laura, «deve essere Satana!» Mentre pronunciava queste parole, vide in lontananza il gruppo che si voltava e si metteva a correre come un solo uomo verso i cespugli. Si alzò, impaurita da quell'avanzata simile alla fuga precipitosa di un branco di animali. Temeva che l'avrebbero travolta e calpestata. Il primo le era già piombato addosso. Sentì che la circondavano, la abbracciavano, la trascinavano in avanti. Udì voci che le parlavano, ma non riuscì a capire che cosa dicessero. A quanto sembrava, la incoraggiavano e si complimentavano con lei, come se quell'incurante adunata avesse improvvisamente deciso di portare alle stelle l'ospite cui nessuno aveva badato. In men che non si dica, si trovò fra Mrs. Leek ed Emily la rossa. La tenevano ciascuna per un braccio. Mrs. Leek le dava dei colpetti di incoraggiamento ed Emily le sussurrava all'orecchio frasi rapide e sconnesse. Erano vicine al nuovo arrivato. Satana, se era lui, che discorreva con Miss Minnie e Miss Jane. Laura lo guardò, lo vedeva abbastanza chiaramente perché gli astanti avevano sollevato le candele per illuminarlo. Le voltava la schiena e parlava con grande animazione con le due vecchiette, facendo cenni col capo e muovendo incessantemente i piedi. Parlando, gesticolava e tutto il suo corpo, esile e flessuoso, sembrava trattenersi a stento dallo scatenarsi in una danza. Laura vide Miss Jane che la indicava e lo sconosciuto si voltò di scatto. Allora poté guardarlo in volto. Per un attimo pensò che fosse cinese, poi capì che portava una maschera. La luce delle candele la illuminava in pieno, ma i lineamenti erano così poco marcati che quasi non c'erano ombre a sottolineare le rientranze della guancia e della mascella. Gli occhi sottili, le sopracciglia oblique, la boccuccia sorridente erano di un'inespressività innocente e intensa. Sembrava il volto di una ragazza molto giovane. La maschera la fissava, vigile e immobile. Lei a sua volta osservava rapita quell'imitazione che la faceva in barba a qualsiasi perfezione in carne ed ossa. Era senza vita, senza vita. Ma ad un tratto lì sotto, nella cavità di quella gola femminea, scorse un palpito di vita, una pulsazione lieve e regolare, come se una collana di perle scivolasse sotto la pelle. Lezioso come una fanciulla, il giovane mascherato le si avvicinò e a mano che lui si avvicinava, gli altri si ritraevano lasciandola da sola. Con movimenti furtivi e sinuosi, lui le arrivò al fianco. Il volto senza vita era vicino al suo e attraverso le fessure occhi non visti la esaminavano. Improvvisamente si sentì saettare sul viso un tocco gelido, con la lingua sottile come quella di un serpente, le aveva leccato la guancia destra vicino all'orecchio. Laura fece un balzo indietro, ma le mani di lui la trattennero. «Si sta divertendo al suo primo sabba, Miss Willhouse?» le chiese. «Per niente», rispose Rola e gli voltò le spalle. Senza guardarsi intorno si allontanò dal campo tra i ballerini che le facevano largo in silenzio. Era su tutte le furie per quell'affronto, furibonda contro Satana, contro Mrs. Leek e Miss Larpen, in preda alla rabbia irrazionale di una donna che si è lasciata mettere in una falsa posizione. Ecco che cosa ci si guadagnava ad andare ai sabba, o meglio, ecco che cosa ci si guadagnava ad anteporre la cortesia al buon senso. Da ora il suo istinto le diceva che non si sarebbe divertita. Se si fosse fatta valere, fosse tornata subito a casa, non avrebbe dovuto subire quell'insulto odioso e meschino. Invece era rimasta, per compiacere a un pubblico a cui non importava affatto che lei se ne andasse. Era rimasta proprio come faceva ai balli, era rimasta per farsi trattare come una ragazzina sciocca che alla fine di un corteggiamento di prammatica si lascia baciare e ne torna palma. Adesso comunque ne era uscita. I suoi piedi avevano seguito le tortuosità di un sentierino che, scavalcato un fosso su un ponticello di assi, traversava un tratto boscoso per sbucare infine in un prato che degradava nell'oscurità. Lì si sedette e appoggiò i palmi delle mani sull'erba fresca. Era stata insultata e presa in giro, ma nonostante tutto non si sentiva realmente umiliata, semmai era colma di una sorpresa compiaciuta e sprezzante per la disinvoltura con cui aveva riscattato la propria dignità. La maschera le fluttuò davanti agli occhi, imperscrutabile come sempre, e lei si trovò a non darsene pensiero, come fosse un guscio d'uovo che avrebbe potuto schiacciare tra due dita. Dunque, il potere delle tenebre non era più temibile di un branco di tonelli in un campo? Bastava darla addosso una volta e l'orda sbuffante e minacciosa si disperdeva. Non restava altro che un guazzabuglio di groppe sgraziate e ridicole code. Era stata una notte sorprendente e lunga, infinitamente lunga, tanto più che non era ancora terminata. L'ora sbadigliò e si accorse di aver fame. Fantasticò di essere a casa, di tagliare larghe fette di pane croccante da una pagnotta che stava nella credenza e spalmarla abbondantemente di burro e dell'avanzo di patè di gamberetti. Ma non sapeva nemmeno dov'era e faceva troppo buio per avventurarsi verso casa. Era stufa della notte e tendeva l'orecchio per sentire il primo canto del gallo, come se la sua volontà imperiosa avesse strappato la coperta di nuvole. Un leggero chiarore delineò un tratto di orizzonte. La luna che calava, il sole che sorgeva, ovest, oest, questo non lo sapeva, ma mentre osservava incerta lo spettacolo, pensando che dovesse trattarsi del tramonto della luna, dato che sembrava spegnersi invece di ravvivarsi, una brezza leggera mosse l'aria e lei, guardandosi intorno, si vide circondata dalle prime luci del giorno. Si alzò a sedere, dimenticando fame e stanchezza, e con la mente sgombra di tutte le delusioni e i misteri del sabato, osservò lo spettacolo dell'alba. Presto fu in grado di distinguere il luogo in cui si trovava. Lo conosceva bene. Era lì che aveva incontrato il tasso. Il pendio davanti a lei era punteggiato di fitti cespugli di ginepro e da uno di essi, un attimo dopo, vide saltare fuori di soppiatto un coniglio che mosse le orecchie e scappò via. La nube che copriva il cielo non era più una presenza solida. Saliva e si smembrava in volute di vapore che si arrendevano al vento. Il giorno appena nato le tingeva d'argento. Ad ogni istante la ragnatela di nubi sembrava salire sempre più in alto, come sospinta da una crescente marea di luce. I corvi si levavano gracchiando dal bosco. A un tratto Lora sentì lo schiocco di un ramento spezzato. C'era qualcuno. Un uomo uscì fischiettando dal bosco. Camminava con un passo stranamente lento e sciolto, aveva un bastone in mano, un ramo colto fra gli alberi e non ancora sfrondato. Diede un colpo alla testa di un alto cardo e Lora vide la rugiada schizzar via dal fior stupefatto. Appena la scorse, l'uomo si fermò come se non volesse disturbarla. Non si mostrò sorpreso di trovarla seduta sul pendio ad aspettare il sorgere del sole. Lei gli sorrise, grata per la sua discrezione e contenta di incontrare di nuovo un essere ragionevole. Incoraggiato, lui rispose al suo sorriso e si avvicinò. «Si è alzata presto, Mrs. Willhouse!» Lora non si ricordava di lui, ma non era una buona ragione perché l'uomo non dovesse riconoscerla. Pensò che fosse un guardiacaccia, dato che indossava un paio di ghette e un cappotto di velluto a coste. Aveva un viso abbronzato, rugoso e i denti bianchi e regolari come quelli di un cane. Il sospetto le piaceva, aveva un'aria affabile e piuttosto distaccata, che ben si addiceva a quell'ora di primo mattino. «Sono stata sveglia tutta la notte», gli rispose. Non c'era curiosità nello sguardo dell'uomo e quando disse che sperava non ne avesse risentito, parlò senza piaggeria né celato divertimento. Anzi, ribatté Lora, mi è piaciuto molto. Il suo rispetto per la verità le fece aggiungere, soprattutto quando ho cominciato a far giorno. Prima mi sono un po' annoiata. Ci sono signore che avrebbero paura, disse lui. Io non ho paura quando sono sola, rispose Lora. Da piccola vivevo in campagna. L'uomo chinò il capo in segno di assenso. Qualcosa nei suoi modi lasciava intendere che lo sapeva già. Forse aveva sentito parlare di lei in paese. È bello essere di nuovo in campagna, rispose lei. Great Mope mi piace molto. Spero che le resti, Miss Willhouse. Lo spero anch'io. Pronunciò queste parole con un po' di tristezza. In quell'ora insolita la sua anima era colma di dubbi. Si chiedeva se, dopo aver disdegnato il Sabba, fosse ancora una strega o se, avendo perso i suoi poteri, sarebbe caduta preda del sano imperturbabile Titus. E la debolezza dovuta alla mancanza di cibo e di sonno le faceva presagire il peggio. Sì, deve proprio restare. Sarebbe un peccato se se ne andasse. Lora fu sul punto di dire: Non ho un altro posto dove andare. Ma si sentì travolgere dalla paura dell'esilio come da un'onda salmastra e, per tema di tradire la propria ansia, non osò rispondere a quell'uomo cortese. Lui le si avvicinò ancora e disse: Si ricordi, Miss Willhouse, che sarò sempre più che felice di offrirle il mio aiuto, ma solo da chiedermelo. Ma dove potrò trovarla? Chiese Lora, troppo colpita dalla gentilezza delle sue parole per considerarle strane. Mi troverà sempre nel bosco, rispose lui. Si toccò il berretto e riprese il cammino. L'ora udì il rumore dei rami scostati e il fruscio dei piedi fra le foglie morte farsi sempre più tenue man mano che lui si allontanava. Decise di non tornare indietro subito. Con il primo tepore del sole le avvolse una piacevole sonnolenza, la sua mente indugiava sulle parole appena pronunciate. La promessa le era stata fatta con tale sobria serietà che lei l'aveva accettata senza porsi domande e senza trovare affatto peregrina l'idea di poter chiedere aiuto a un guardiacaccia sconosciuto o che lui soffrisse di darglielo. Pensò che forse al mattino presto le persone sono diverse, meno timide, come i conigli che giocavano intorno a lei, più aperte e più dirette. In ogni caso, era grata allo sconosciuto per la simpatia che le aveva dimostrato. Sapeva che lei voleva restare a Great Mope e l'aveva incoraggiata a farlo. Era la tradizionale cortesia di campagna, l'invito a mettere radici. Eppure doveva aver parlato sul serio perché, vedendola preoccupata, si era offerta di aiutarla. Forse era sposato. Così, se Mrs. Leek, offesa, non l'avesse più voluta con sé, lei avrebbe potuto andare ad abitare con il guardiacaccia e sua moglie nella loro casa in una vallata fra i boschi di faggio. Aveva detto che viveva nei boschi. Prese a fantasticare sulla vita in una casa come quella e pensò che sarebbe stato anche meglio che abitare in paese. Immaginò la sua stanza con le pareti imbiancate, piene di cangianti ombre verdi, il fumo del fuoco che si alzava involute fra gli alberi, le braccia maestose che ondeggiavano sopra di lei mentre dormiva e che d'inverno si coprivano di un piumaggio di neve. Alle sue spalle gli alberi mormoravano in tono consolatorio e l'ora si abbandonò al loro sussurro. «Si ricordi, Miss Willows?» «Si ricordi!» bisbigliavano gli alberi, facendo oscillare i rami ricoperti di fitte fronde. Lei si ricordò e capì. Uscendo dal bosco, vestito da guardiacaccia e parlandole in modo così schietto e tranquillo, il demonio era venuto a rinnovare la sua promessa e rassicurarla. Aveva assunto quelle sembianze in modo che lei non si spaventasse, o forse voleva farle sapere che per coloro che lo servono, egli non è più un cacciatore, bensì un guardiano? Quello era il vero Satana. Quanto all'altro, colui che il suo spirito aveva così impetuosamente respinto, aveva fatto bene a ripudiarlo perché era soltanto un impostore, un ciarlatano, un fantoccio. Fugato ogni dubbio, tornò verso casa attraverso i campi, fermandosi di tanto in tanto a raccogliere funghi. Mentre si avvicinava al paese, sentì i galli di Mr. Sauters cantare e vide l'altro gallo, sempre allerta e sempre silenzioso, scintillare al sole sul campanile della chiesa. I tassi del cimitero proiettavano le loro lunghe ombre come tombe aperte. Dietro quelle tende bianche dormiva Mr. Jones, sognando forse del sabba a cui non gli era permesso partecipare. Traversando il giardino di Mrs. Leek, Laura ricordò il suo primo mattino da strega, quando si era alzata per far uscire il gattino. I girasoli erano stati tagliati e dati alle galline, ma la spazzola era ancora sul davanzale della cucina. Erano passate 3 settimane e Titus, come la spazzola, era ancora lì. Durante quelle 3 settimane Titus aveva richiesto parecchia assistenza. In realtà la parte della zia strega era 2 volte più gravosa di quella della zia qualsiasi, e se Laura non avesse saputo che era questione di giorni, difficilmente avrebbe retto. Su richiesta del nipote preparò veli di garza zavorrati da perline azzurre per proteggere i suoi cibi e le sue bevande. Titus aveva insistito perché le perline fossero azzurre, azzurro è il colore dell'Immacolata Concezione. E come le pie madri continentali consacravano i loro bambini, così lui avrebbe consacrato il suo latte sperando per il meglio. Ma le perline azzurre erano introvabili in paese e Laura dovette andare a piedi fino a Burleigh's. Colmo di gratitudine, Titus andò da lei per ringraziarla e si fermò a prendere il tè. Non appena se ne fu andato, arrivò Mrs. Garland. Aveva visto la garza e sperava che Mr. Willows non attribuisse a lei la colpa per il latte cagliato. Poteva garantire a Miss Willows che i bricchi venivano lavati mattino e sera con acqua bollente. Lei proprio non riusciva a capire come potesse essere successa una cosa simile. Era sempre ansiosa di soddisfare i suoi ospiti, disse, ma i suoi modi suggerivano più ansia di ricevere che di dare. Laura la tranquillizzò e si sedette ad aspettare Mr. Dabburi, ma questi si limitò a lanciare un'occhiataccia alla zia di quel giovane impiccione e spinse il toro sul sentiero che attraversava il campo. Allora sembrò che le lanciasse un'occhiataccia anche il toro. Nonostante la garza, il latte continuò a inacidire. Titus venne a riferirle che aveva avuto un'idea. In futuro sarebbe ricorso al latte condensato. Quale tipo gli consigliava zia Lolly? E gli avrebbe fatto una presina per il bollitore? Evidentemente il latte condensato era garantito contro il diavolo, perché tutto tornò tranquillo finché Titus si stagliò il pollice con il bordo arrugginito di un barattolo. Malgrado l'intervento di pronto soccorso di Laura, la ferita si infettò e per diversi giorni Titus dovette portare il braccio al collo. Vincendo trionfalmente il dolore, continuò a lavorare alla bita di Fuseli. Siccome però il pollice ferito era quello destro, il trionfo comportava un amanuense. Laura odiava l'inchiostro e si meravigliava che esistesse qualcuno dotato di tanta costanza da riuscire a scrivere un libro intero. Pensò con un brivido al paradiso perduto. Per scrivere il libro di qualcun altro ci voleva una costanza ancora maggiore, ma per quanta considerazione avesse per le sofferenze delle figlie di Milton, ne aveva ancor più per la propria, convinta com'era che loro non fossero state costrette a balzare in piedi in continuazione per accendere la sigaretta al poeta. E poi si diceva che quei versi fluissero magistralmente dalle sue labbra, mentre Titus dettava una prosa a cui era molto più difficile mettere la punteggiatura. Una prosa che nemmeno scorreva. Titus non si sentiva in gran forma, lui odiava le seccature e negli ultimi tempi ne era stato sommerso. Ogni giorno c'era qualcosa che andava storto, qualche piccola sciocchezza. Tutto il suo ingegno andava sprecato in stratagemmi, cosicché non gliene restava neanche un briciolo per Fuseli. E comunque la dettatura era roba da magnati del petrolio. Titus balzava in piedi e saettava per la stanza brandendo uno scacciamosche. Schiacciare le mosche era uno sport virile da praticare al coperto, soprattutto se si osservavano tutte le regole. Il soffitto era diviso in quadri, come una scacchiera, e finché le mosche stavano nelle loro caselle, non le si poteva attaccare. Il triangolo tracciato tra il vaso azzurro, il vaso rosa e il lampadario costituiva una sorta di parco di Yellowstone, e lo stesso valeva per il ritratto del re. Una difficile decisione. Ma Titus aveva deciso che fra i due mali era più tollerabile che le sembianze reali fossero calpestate dalle mosche piuttosto che assalite da un suddito. E l'avversario, per giunta, era costretto a usare la sinistra. Le mosche non avevano di che lamentarsi, secondo lui. Laura riconosceva la sua generosità e, quando poteva, andava a sedersi nel parco di Yellowstone. Nel tempo che a Titus servì per recuperare l'uso della mano destra, le mosche persero ad uno tutti i loro santuari, finché non poterono più nemmeno rivendicare come proprio il ritratto del re. Entravano a nugoli nel salotto di Titus, attratte, così pensava Mrs. Garland, da ricordo di quel terribile formaggio straniero che Mr. Hampshire, l'amico di Mr. Willhouse, si era portato dietro quando era andato a trovarlo. Entravano a nugoli anche nella sua camera da letto ed era questo, diceva Mrs. Garland, che attirava i pipistrelli. Laura mise Titus al corrente delle credenze secondo cui se un pipistrello resta appigliato nei capelli sciolti di una donna, non c'è altro rimedio che tagliare via capelli e pipistrello insieme. Titus impallidì. Quel pomeriggio andò a Londra dal suo parrucchiere e tornò con un taglio da carcerato. Tutto ciò che aveva notevolmente turbato la vittima, ma non era valso a farla battere ritirata, e in compenso turbavano un poco anche Laura. Fino a quel momento, pensò, il piano e la sua esecuzione erano stati opera del gattino, riconosceva i modi giocosi di Aceto. Doveva ammettere che aveva fatto del suo meglio, ma era giovane e inesperto, e quello probabilmente era il suo primo tentativo di persecuzione seria. Non c'era da stupirsi che i suoi metodi lasciassero un po' a desiderare. Ora che il diavolo aveva preso la faccenda nelle proprie mani, e di questo ne era certa, tutto si sarebbe presto risolto per il meglio. Meglio per lei, meglio per Titus. In verità era proprio ora che quel povero ragazzo fosse lasciato in pace. Laura nutriva nel maligno una fiducia assoluta, una fiducia che Aceto non le aveva mai ispirato. C'era un tocco di gratuita perfidia nel suo carattere. Era, come si suol dire, sornione come un gatto. Laura sospettava che meditasse di fare a Titus un graffio che gli avrebbe avvelenato il sangue. Ripensava con inquietudine a quello che si dice: i gatti facciano ai bambini addormentati, e ogni notte badava bene a chiudere Aceto in camera da letto con lei. Una precauzione inutile, perché se era entrato dal buco della serratura poteva facilmente uscire per la stessa via. Il diavolo si sarebbe liberato di Titus in modo più rapido, cortese. Non aveva motivo di non dimostrarsi cortese. Laura non riusciva a immaginare che Titus potesse minimamente interessargli, ed economico. Niente cataclismi, niente esibizioni da baraccone con inondazioni e incendi. Avrebbe proceduto con discrezione e sicurezza, come un guardiacaccia che fa il suo giro notturno. Avrebbe tolto di mezzo Titus con la stessa imperturbabilità che la Dunlop aveva dimostrato nel togliere di mezzo la foglia di faggio. Ora poteva mettersi comoda e aspettare. Quando Titus si presentò la volta dopo, lamentando di essere rimasto sveglio due notti di seguito per la colpa di un topo che gli rosicchiava una gamba del letto, Laura si dimostrò molto disponibile. Andarono da Mrs. Trumpet con l'intenzione di comprare una trappola per topi, ma siccome Mrs. Trumpet teneva solo formaggio, fecero una piacevolissima passeggiata tagliando per i campi e arrivarono fino a Burleigh's, dove i magazzini Dan By offrivano un assortimento più vasto. Mentre camminavano, Titus rievocò aneddoti tradizionali sui topi e architettò un piano per difendere il proprio letto, circondandolo di una baldanza di pelle di gatto. Era una splendida giornata e di tanto in tanto Titus si fermava a illustrare il paesaggio con fare possessivo. Era particolarmente felice. Da tempo non si divertiva così. Il latte, i topi e le mosche lo avevano depresso. Non stava rendendo giustizia a Fursley e quando usciva per risollevarsi, lo spirito con una bella passeggiata lo accompagnava a un senso di oppressione. Un paio di volte aveva provato una terribile paura, anche se non sapeva di che cosa. Il rumore di un cancello sbattuto dal vento, un albero morto con rami simili a palchi di corna, la discesa furtiva del sole verso l'orizzonte, cose del tutto normali, come queste avevano il potere di turbarlo. Aveva preso l'abitudine di parlare da sola a voce alta, discorreva con le creature della sua fantasia. «Ti ho visto, vecchio cervo!» diceva all'albero morto. E una volta, mentre il crepuscolo lo seguiva verso casa, aveva cominciato a ripetere. Come colui che per una via solitaria avanza pieno di terrore e giratosi una volta riprende il cammino, senza più voltarsi indietro, perché sa che uno spirito malvagio e spaventevole lo incalza da vicino. A quel punto il rumore di un ramoscello spezzato lo aveva irrigidito da capo a piedi per il terrore. Un impulso incontrollabile lo aveva spinto a guardarsi alle spalle solo per mostrargli il vecchio Luxmore, che era uscito a caccia con le sue trappole. Il vecchio si era toccato il berretto in cenno di saluto e aveva sorriso con aria imbarazzata. Tutti sapevano che cacciava di Frodo, ma non era gentile coglierlo sul fatto. Sembrava che non avesse sentito Titus parlare da solo, né notato il suo sussulto di terrore, eppure c'era stato un istante prima di riconoscerlo in cui Titus aveva quasi saputo ciò che temeva di vedere. Era stato piacevole quindi scoprire che la compagnia di zia Lolly esorcizzava tutti quei fantasmi ostili, chiaramente erano paure immotivate. Il giorno dopo avrebbe fatto una lunga camminata da solo.